La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Fuori di città presso l'Arno, una sera di primavera, vidi sull'aia di un casolare parecchie coppie a ballare. Rodrigo Morganti è il dottor Strettoscopio, non è un errore, si fa chiamare proprio così lui dai suoi bambini, storpiando il nome di uno strumento che diventa familiare per chi sta molto in ospedale. E a passare tanto tempo in ospedale ci sono purtroppo anche i bambini dei reparti di oncologia. Roberto Morganti è uno dei dottor sogni della Fondazione Teodora. Sono professionisti pagati perché il loro è un lavoro che rende forti i bambini. Ridere è come un piccolo passo verso la guarigione. Domani mattina tu ti devi svegliare come tutti i giorni, fai colazione, ok, ti prepari e poi vai con Gabriele a fare l'operazione. Ma se c'è lui, tu non ti devi preoccupare, ti difende lui. Gabriele, diglielo che vai con lui, che vai con il piede, diglielo pure. Dai un bacio a chi vuoi tu. Questa è la prova. Roberto è un artista professionista che ha studiato per lavorare negli ospedali pediatrici. Sono tanti, per fortuna, i dottor sogni. Vanno a strappare un sorriso agli oltre 15.000 bambini ricoverati nei reparti di lungodegenza degli ospedali italiani. Io sono un dottor sogni, quindi sono un artista professionista, attore, giocoliere, clown, che poi 20 anni fa ha iniziato il lavoro del clown dottore. Lei quante volte va in ospedale a trovare i bambini, che tra l'altro, essendo lungodegenze, sono bambini con i quali poi lei instaura un rapporto d'amicizia? Esatto, noi abbiamo iniziato a lavorare soprattutto nelle lungodegenze, ma poi non, per fortuna come fondazione non siamo snob, quindi poi lavoriamo anche in altri ospedali dove ci sono anche delle ospedalizzazioni un po' più brevi. Però la nostra missione è quella di andare una volta a settimana nei reparti dove lavoriamo e dove ci conoscono. Questo per due motivi. Uno, creare un'aspettativa. Spesso se il bambino all'istituto dei tumori sa che noi andremo lunedì, ci aspetta e sa che quel giorno è il nostro giorno di visita. La seconda cosa, perché pensiamo che invece il sovraffollare i reparti, quindi andare tutti i giorni, possa togliere un pochettino quella sorpresa e quel beneficio che possiamo portare. Quanto è importante per questi bambini quel momento magico che poi ritorna la settimana successiva? Chiaro, il fatto di avere comunque, di tenere accesa una speranza è una cosa fantastica. Tra l'altro le faccio notare una cosa paradossale forse, no? Perché in alcuni ospedali dove noi lavoriamo abbiamo bambini che vengono da tutta Italia, proprio perché sono un po' all'avanguardia su ciò che è la ricerca e così. A volte ci sono dei bambini che sanno che il martedì noi siamo al neurologico Carlo Besta e non vogliono essere dimessi finché non arriviamo noi. Questa volta rischia di portare a dei problemi, però invece poi è una cosa divertente, perché magari i genitori poi hanno da prendere un aereo, un treno. A lei mi è capitato di rimanere in contatto con questi bambini una volta dimessi? Guarda, sono successe cose, ma io purtroppo mi considero un dinosauro, essendo quello che ha iniziato a lavorare come clown dottore qua in Italia nel 95. Una cosa magica che mi è successa poco tempo fa in un ospedale era che prendiamo un ascensore per andare a cambiarci e incontro un ragazzo che mi guarda e mi chiede: ma tu 15 anni fa andavi in istituto dei tumori? E io ho detto di sì, e lui fa: io ero dall'altra parte, nel senso che lui è stato un ragazzo che abbiamo avuto là in cura e che adesso sta diventando un dottore, era specializzando, quindi per me è indescrivibile l'emozione e la gioia che ho provato, perché poi era un po' come nei film americani, che quando lui mi ha detto questo si è aperta la porta dell'ascensore e lui è dovuto uscire, quindi le nostre vite sono andate avanti, poi lui mi ha ricontattato tramite mail e altre cose, ci siamo sentiti. È una storia incredibilmente emozionante, molto emozionante. Sì, nel senso, sono emozionato io adesso ancora a riraccontargliela, quindi immagini. E come questa sono successe altre cose magiche, così. Naturalmente poi noi, visto che andiamo lì come una fondazione, non è che va lì Rodrigo Morganti personalmente, ma va il mio alter ego, il dottor Strettoscopio, che è stato creato apposta per la fondazione. Per alcune cose invece si cerca di passare alla fondazione, anche una forma che diamo a chi inizia a lavorare di protezione, nel senso che... La Fondazione Teodora. Fondazione Teodora, sì, che è la fondazione con cui collaboro da, appunto dal 95. Ecco, com'era quando hai iniziato nel 95? Come la guardava la gente, i genitori? Io ho avuto la fortuna di vivere questa cosa, appunto, di essere stato un pioniere, che è una cosa strana, ed è una cosa stranissima. Poi fortunatamente questa cosa l'ho riprovata in altre nazioni dove sono andato comunque a lavorare sempre come clown dottore. Ma se adesso, quando qualcuno dice che fa il clown, tutti gli chiedono anche se fa il clown dottore, perché ormai è una cosa, dopo film e dopo che se ne è parlato, che ormai sono 20 anni che c'è in Italia, ai tempi era una cosa molto pionieristica ed era molto buffa. Era buffo, uno, vedere anche come ci accoglievano i dottori, nel senso che anche per noi è cresciuto molto quello che stavamo facendo. All'inizio si pensava che il clown dottore andasse in ospedale a distrarre i bambini, mentre invece poi si è arrivata a capire che ha delle potenzialità enormi e che forse l'ultima cosa che facciamo è quella del distrarre i bambini. Senta, io le volevo chiedere anche questo. Lei se lo ricorda proprio il primo giorno in cui lei si è vestito, ha messo il camice bianco, si è vestito truccando il viso da pagliaccio, diciamo così, ed è entrato in corsia? Cioè, lei si ricorda quel momento? Sì, cioè ce l'ho abbastanza tatuato nella mia mente. Cioè, ho vari momenti, adesso parliamo del primo giorno, ho il ricordo della prima volta quando ho dovuto fare la mia formazione, che la prima volta che ho assaporato veramente quello che è il clown dottore, ed era nel momento della mia formazione, quindi io avevo il camice, no? E poi ho il ricordo indelebile della prima giornata nel giugno 95 all'Istituto dei Tumori, dove veramente... Però procedo con ordine, poi io sono un po' logorroico. Sì. No, va benissimo. Premetto che io non volevo fare il clown dottore, nel senso che la Fondazione Teodora era arrivata in Italia e stava cercando dei clown. Per le casualità della vita, i clown che avevamo visto non gli piacevano, perché la Fondazione Teodora lavora con artisti professionisti ai quali poi viene data tutta una formazione per il lavoro in ospedale, che va dalla formazione artistica al lavoro igienico, psicologico, sanitario, diciamo. Quando loro mi trovano, io volevo conoscere queste persone e dargli la mano, fargli le mie congratulazioni. Io già lavoravo come clown e come artista, però sapevo che l'ospedale per me non era il luogo. Loro alla fine si innamorano un pochettino di me e mi propongono di andare in Svizzera a fare una formazione, che ai tempi era una cosa veramente ridicola. Dico ridicola nel senso che, ripeto, forse il primo clown dottore risale a Michael Christensen nel 1986, quindi già nel 95 era una cosa abbastanza nuova e pionieristica. Vado in Svizzera e faccio la mia ultima visita, l'ultimo giorno in ospedale, sapendo che poi non avrei continuato il lavoro con la Fondazione Teodora. E lì invece conosco un altro dei clown dottori, che è quello che io considero il mio formatore. Quando arriviamo in ospedale ci danno la consegna, perché noi abbiamo la possibilità di sapere tutto quello che succede in ospedale. Naturalmente dobbiamo mantenere la riservatezza d'obbligo, però in modo da sapere cosa sta succedendo ai bambini, anche igienicamente da chi iniziare o no. Arrivo quel benedetto giorno in ospedale e mi dicono che c'è un bambino terminale. Naturalmente io, consapevole del fatto che era la mia ultima visita, era la cosa che non volevo vedere, nel senso che avevo veramente tantissima paura che mi avrebbero chiamato in quella stanza, e pensavo di non poter apportare niente in quella stanza, immaginandomi una situazione di sofferenza estrema. Però avendo paura di quella stanza, io, come si fa di solito quando si ha paura, quando camminavo nel corridoio continuavo a guardare quella porta per paura che la porta si aprisse e che mi chiamassero. Un po' un vigliacco forse, ma così. Succede che a un certo punto quella porta si apre e da quella porta esce il dottor Bobo, che è quello che io considero il mio formatore, e vedo un'energia, una magia, una tranquillità tra i genitori, un affetto, amore, non so come descriverglielo, che era quello che era riuscito a costruire quel clown dottore. Naturalmente lui conosceva già quella famiglia, che spesso, se io devo paragonare, faccio un esempio a quando ho assaggiato il cioccolato per la prima volta, quell'energia mi è sembrato il cioccolato e ho detto io voglio vivere di questa energia, e da allora mi sono trovato regolarmente a lavorare in ospedale. La prima volta. La prima volta. And I called through the air that night, a calm sea voice with a line. I could only smile, I've been alone. And all, it's been fine. And you... Questa è una storia che non saprei come raccontare, se non che è la storia di un uomo che lavora col dolore e lo trasforma in momenti di allegria, di sollievo. Roberto Morganti è il dottor Sogni, va nei reparti di oncologia e cerca di far divertire i bambini. Roberto fa questo lavoro da 20 anni. Ogni tanto ci dice bisogna essere capaci di non entrare, di portare a casa un rifiuto. Ma quando si riesce a entrare nelle stanze, tutto cambia. Già una cosa magica è il fatto di riuscire ad entrare in una stanza e cambiare l'energia, riuscire a cambiarla. Faccio un esempio, come se entrassimo in una stanza chiusa e aprissimo le finestre per rinfrescare. Un'altra possibilità è che noi siamo delle persone che possono concentrarsi sulla parte sana del bambino. Il bambino o il ragazzo o la persona che è in ospedale, perché purtroppo in alcuni ospedali dove noi siamo sono aumentati tantissimo i casi di ragazzi, adolescenti che arrivano fino ai 25 anni. Quindi. Però ritorno a parlare della parte sana, se a me fa male un dito, io entro in ospedale e il 99% delle persone si concentrerà su quel dito, perché naturalmente è la cosa che mi fa male. Invece la cosa bella di noi è che possiamo lavorare su tutto il resto, nel senso non ignoriamo il fatto che a te fa male il dito e non cerchiamo di fartelo vivere come handicap, però c'è tutta una parte sana del tuo corpo che comunque sta vivendo e sta lottando anche lì. L'altra cosa, il nostro lavoro è basato su un ascolto, l'ascolto delle emozioni. Si immagini che un bambino magari in un ospedale vede i genitori che stanno piangendo e fanno finta di niente, capisce che c'è qualcosa che non va e si sente responsabile, pensa che è tutta colpa sua la malattia e altre cose. C'è una comunicazione che non funziona più e ha un insieme di emozioni che purtroppo non riesce a decifrare, non riusciamo neanche noi adulti a volte a decifrare cosa ci sta succedendo in un caos, in un momento di trauma. Se arriva un clown dottore, che è un po' come se fosse il bambino del re nudo, che riesce a dire tutto per l'innocenza che ha, e quindi riesce a dire ma guardate che il re è nudo, e riesce a riconoscere l'emozione del bambino, faccio un esempio, dirgli ma sai che fai bene ad aver paura, e magari gli fai vedere e gliela trasformi in gioco la paura, cosa fai tu quando hai paura, tu come adulto, e così il bambino vede che c'è una persona che non ha paura di parlare di determinate emozioni e che dimostra anche attraverso il gioco che le sa, se le sa vivere. Quindi secondo me è anche una cosa che per lui è una cosa importante, no? Perché come sappiamo la cosa più pericolosa è reprimere determinate emozioni, qualunque emozione sia, perché poi quando esplode, esplode. L'altra cosa è quella che dicevo appunto sulla distrazione. Vi faccio un esempio. Quando un bambino doveva entrare e fare una puntura, ci dicevano di dirgli non aver paura, non fa male. Che queste sono delle parole, non voglio giudicare i genitori o le persone che lo dicono, perché comunque spesso è una cosa che stai dicendo più per te che per il bambino, però spesso il fatto di dire che una cosa non fa male e poi farà male porterà il bambino a non fidarsi più. Perché? Uno, perché mi devi dire non aver paura, che io ero tranquillo e adesso mi stai dicendo di non aver paura e già mi metto in uno stato di allerta. E due, mi dici che non farà male, se poi mi fa male io non mi fido più di te. Allora noi come clown dottori abbiamo la possibilità di arrivare lì e dirgli no, male fa male, però proviamo a lavorare sul dolore, proviamo a immaginarlo, a dargli una forma, a dargli un colore, a capire se per caso diminuisce dopo un po'. Allora, ripeto, questo bambino si fiderà di noi e da lì è più facile poi lavorare con lui. Le volevo chiedere questa cosa, lei quanti anni ha? Io ho 40 anni. Quindi è giovane, comunque è iniziato giovanissimo, è iniziato a 20 anni? Iniziato a 20 anni, sì. Quanto è cambiato rispetto proprio alla sua evoluzione, alla sua crescita, anche il modo di avvicinarsi al tema del dolore, al tema della morte? Guardi, è cambiato tantissimo, è cambiato anche grazie, poi io devo ringraziare tantissimo la Fondazione, perché oltre alla formazione iniziale ci dà anche una formazione continua e ci dà un lavoro di supervisione, di gruppo, che sono cose che io ritengo indispensabili, soprattutto se si va a lavorare nel sociale o in situazioni di stress per altre persone, sono degli strumenti basilari. E poi l'altra cosa a cui devo ringraziare è il gruppo veramente di persone di lavoro, i colleghi con cui vado in ospedale, che aiutano tantissimo e che sono proprio delle persone con cui abbiamo condiviso, penso, uno spessore di vita immenso. Senta, un'altra cosa che le volevo chiedere è, siccome quando ha parlato appunto di questo suo incontro con la Fondazione Teodora e dell'inizio di questo percorso, ha detto che ha avuto proprio delle resistenze, che cos'è che la spaventava di più della possibilità di entrare? Io erano gli anni in cui avevo avuto vari amici che erano finiti in ospedale, classici incidenti, poi quando avevo 17 anni era mancato anche un mio amico, sempre per incidenti, non per malattia, ma soffrivo tantissimo l'ambiente dell'ospedale, soffrivo anche solo il semplice odore dell'etere. Mi ricordo che ero andata a visitare un mio amico e mentre gli toglievano la flebo io stavo per svenire, no? Era tutto un ambiente che io ricordo ostile, per di più quando ero piccolo piccolo ero stato in ospedale, perché, e non penso di poter avere un ricordo di quei 3 anni, però c'è un qualcosa, poi era impossibile farmi punture e altre cose, quindi sono una persona che ha sempre avuto tantissima paura degli ospedali. E quindi quando lei, diciamo, ha capito che sì, quella era la cosa che voleva fare, no? Quando ha parlato, prima ha parlato di questa immagine che la riportava a una dolcezza come alla cioccolata. Quando lei ha capito questa cosa, poi tutte quelle paure sono scomparse? Le sue, dico, rispetto all'ospedale, l'odore? Le mie paure continuano ad esserci. La cosa bella delle paure è poterle guardare in faccia. Faccio un esempio, cioè un'immagine, spesso parlo per immagini, è come quando si salta col cavallo. Che prima di arrivare al salto tu hai il cuore in gola e vorresti anche fermare il cavallo e non farlo. Nel momento in cui salti sei nella felicità piena, però poi riatterri e c'è un altro ostacolo davanti a te e sei pronto, e sempre ci sarà questo gioco di paura e di superamento della paura, ma che è anche la magia, no? Perché come prima le dicevo, io all'inizio non mi sentivo adeguato a lavorare in ospedale, però ho scoperto che lo sono. La Fondazione ci dà determinati strumenti per poter lavorare e per poter affinare il nostro lavoro lì. Ma come ho detto anche prima, non penso che noi dobbiamo dimostrarci niente. La cosa magica della Fondazione Teodora, secondo me, è che poi è proprio un lavoro d'équipe, nel senso che ci sono persone che lavorano per noi, che lavorano in ufficio e che non andranno mai in ospedale per i timori che hanno dell'ospedale, come io non lavorerò mai in ufficio perché penso che rischierò di fare tantissimi danni. E proprio in questa grande squadra che c'è, oltre all'ufficio, ci sono volontari e ci sono altre persone che riescono ad aiutarci. Mi dà proprio l'idea di una squadra di calcio dove c'è il portiere, l'attaccante, così. Adesso c'è anche la possibilità di sostenerci attraverso questo SMS solidale per fare in modo che anche le piccole donazioni ci portino là, e con questo è proprio un supporto. Ciascuno sta lavorando per fare in modo che noi possiamo andare lì a lavorare in ospedale. Quindi mi sento di chiedere a tutti quanti di fare una donazione al 45502. Un sorriso che vale tantissimo. Ne è passato molto di tempo da quando un medico cominciò ad avvicinarsi al sorriso, come raccontato nel film Patch Adams. Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare. Signora Adams, e non aspettate di essere in corsia per riacquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare. Parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita. La prima volta termina qui. Potete riascoltarci in podcast, scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 13.30. Buona domenica da Cristina Carpinelli.